Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti, un ben ritrovati sulle frequenze della nostra Radio Maria per il consueto appuntamento che si rinnova il primo sabato di ogni mese con la trasmissione Oltre, la vita eterna spiegata a chi cerca. Prima di continuare le nostre conversazioni che si stanno muovendo da alcune puntate su quelle che sono le premesse fondamentali, cioè interrogarsi sulla morte per comprendere il senso della vita, credo utile, cari amici, ricordare il significato anche di questa sorta di sottotitolo che accompagna il nostro percorso. Spiegare la vita eterna a chi cerca. È fondamentale essere in ricerca. Se non si è in ricerca, se non si è cioè aperti onestamente a interrogarsi su quella che è la consistenza e il significato ultimo della vita, se non si è disposti a mettere in dubbio quello che già si crede di sapere, tutto quello che stiamo dicendo e condividendo potrebbe suonare astratto, lontano dai problemi concreti della vita o forse addirittura inutile. Mi viene in mente quando, seguendo il percorso L'arte di guarire di Don Fabio Rosini, si parlava della importanza dell'ascolto. L'ascolto, diceva Don Fabio, è il primo passo per cominciare un percorso di guarigione. Pensate quando in una coppia ci sono delle difficoltà, quando i genitori non riescono più a comprendere i propri figli. Il primo passo, diceva Don Fabio, è proprio quello di ascoltare colui che magari non ascoltavamo da tanto tempo. Ecco, questo ascolto io credo che valga anche nei confronti di noi stessi. È importante imparare ad ascoltare le domande profonde che nel nostro cuore ci spingono ad andare oltre quella tentazione che già la volta scorsa mettevamo in luce rispetto al desiderio di mettere da parte gli interrogativi scomodi. Ma come faccio a mettere da parte la tentazione di accontentarmi di quello che so o che credo di sapere? Solo se mi accorgo che al di là della apparente comodità, certi interrogativi, se vengono messi da parte, mi impediscono di vivere in verità, in pienezza, in onestà, il mio cammino di vita. E faccio un esempio, un po' come quando ci si trova ad ascoltare una parola nuova. Soltanto se ho messo in discussione quello che consideravo il mio vero sapere, la mia verità, questa parola scende nel mio cuore. Pensate a quello che poteva essere accaduto, cari amici, al tempo di Gesù. Tutti lo ascoltavano parlare, tutti lo ascoltavano insegnare, tutti lo ascoltavano annunciare il regno di Dio, ma pochi si convertivano, pochi decidevano di seguirlo. Perché? Perché l'ascolto non dipende soltanto dalla parola che si riceve, ma da come la si riceve. Coloro che pensavano di sapere già tutto, di avere la verità in mano, pensate ai farisei o agli scribi, i dottori della legge, erano i più polemici nei confronti di Gesù. Andavano a controllare ogni singola parola se era compatibile con quello che loro pensavano dovesse essere la verità della legge di Dio. E quelli che invece erano più semplici, più piccoli, forse anche più ignoranti, si lasciavano mettere in discussione. Chi è assetato di verità è disposto ad accogliere una parola nuova. Chi pensa già di avere tutto a disposizione non cerca altro. Così capita anche con le grandi domande sulla vita. Abbiamo visto la volta scorsa come una tentazione può essere quella di considerare la morte come un fatto semplicemente naturale, come fosse parte della vita, come fosse un elemento di un cammino di vita che non richiede di interrogarsi ulteriormente, ma vedevamo che non è facile mettere da parte quel senso di disagio, di angustia, di sofferenza, di frustrazione che ci prende ogni volta che ci poniamo dinanzi alla morte di una persona cara, che ci spinge a interrogarci: è davvero così normale morire? Potremmo dire che c'è una sorta di tabù. È la paura della morte, da qui vorrei partire questa volta per spiegare per quale motivo l'uomo di oggi ha così poca sapienza della vita, perché non considera un elemento fondamentale della nostra vita, che ha un inizio, una fine che non è in mano nostra, ma soprattutto un'apertura sull'oltre, sull'eternità, sulla pienezza di significato, senza considerare la quale non si trova alcun senso e alcuna risposta alle grandi domande di ogni giorno. Il problema della sofferenza, della fatica, della mancanza di realizzazione dei nostri progetti umani. E allora voglio partire proprio da questo paragrafo, da questo capitoletto che ritrovo ancora nel mio testo, nella prima sezione. La paura della morte è un tabù di cui difficilmente si parla. Oggi non si ha tanto paura della morte quanto piuttosto di parlarne. Perché? Proprio perché se io parlo della morte in verità e con apertura, senza alcuni filtri che magari mi impediscono, ecco, di arrivare al fondo della questione, se parlo della morte in questo modo, è evidente che sono poi spinto a pormi interrogativi radicali sul senso della vita, sul significato della mia esistenza, ma anche sul significato degli obiettivi che mi pongo all'interno della vita, nel quotidiano o su periodi di media e lunga scadenza. Parlare della morte è diventato difficile e lo si capisce perché anche oggi si preferiscono espressioni che tendono a mascherarla. Ad esempio, quando una persona muore, sentiamo sovente dire è scomparso, è mancato. Oppure è venuto meno, si è spento, si è addormentato. Chiaro che a volte fa comodo usare un sinonimo, ma quando lo si usa in sostituzione della parola che direttamente designa la realtà della morte, è perché forse si preferisce non arrivare al punto, non arrivare al dunque. E questa è una questione che mette sovente in imbarazzo anche persone adulte e navigate. È per quello che spesso anche i genitori preferiscono tacere completamente il fatto della morte ai bambini. Una delle domande che mi viene posta più spesso quando faccio catechesi sulla vita eterna è proprio questa: ma come si fa a parlare della morte ai bambini? Bisogna stare nella verità. Quando Gesù dice lasciate che i piccoli vengano a me, lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. Io non credo si riferisse soltanto ai bambini che potevano andare a disturbarlo in quella terra di Galilea 2000 anni fa, dove gli apostoli e i discepoli cercavano di preservare un po' di tranquillità. Sappiamo che i bambini allora come oggi sono chiassosi, numerosi, vivaci. In realtà era un po' come se Gesù dicesse: lasciate che i vostri bambini vengano a me, che vengano alla verità, perché io sono la via, la verità e la vita. Lasciate che vengano a me nella verità di sapere qual è la consistenza della vita. Lasciate che vengano a me e che conoscano che dopo la vita e il passaggio della morte c'è l'eternità. Ecco, molti fanno fatica a parlare del mistero della morte ai bambini semplicemente perché non sanno neanche essi quale risposta dare alle proprie domande. Per cui, ad esempio, quando muore la nonna si dice si è addormentata. Ecco, non è una soluzione ottimale questa. Qualcuno mi dice, ma se dico che si è addormentata, non la vedono più, come non vedono una persona che dorme durante la notte, è un linguaggio normale, quotidiano, forse è più facile capire di quale realtà stiamo parlando. In realtà no, perché i pedagogisti contemporanei hanno dimostrato che molti dei problemi di sonno dei bambini derivano da queste false risposte. Immaginate se uno dicesse, la nonna si è addormentata per sempre. È evidente che porta il bambino, consapevolmente o meno, a temere di addormentarsi e, come la nonna, non risvegliarsi più. Allora è molto meglio dire la verità. La nonna è in cielo, la nonna è in paradiso, ovviamente adattandola alla misura del sapere e del capire dei bambini. Guardate che quando si aiutano i bambini a sviluppare la devozione alla Madonna, alla Vergine Maria, si fa proprio questo tipo di servizio. Che cosa intendo dire? Che nel momento in cui si dice, guarda che tutti abbiamo una mamma in cielo che è la Madonna, nel momento in cui incomincio a parlare del cielo, a dire che c'è una mamma di tutti, quando la nonna o una persona cara o un amico dovesse morire, posso indicare una meta e qualcuno che ci attende, perché la cosa importante è non indicare semplicemente un luogo, ma un luogo umano in cui c'è qualcuno che accolga quest'anima. Ed ecco che allora la mediazione materna di Maria si rivela decisiva anche per affrontare questo mistero. E poi ovviamente si dirà che in paradiso soprattutto c'è Gesù. Quel Gesù che magari hai ricevuto nella prima comunione, quel Gesù che come genitore hai insegnato ai tuoi bambini a pregare e ad adorare fin da quando erano piccoli. A quel Gesù possiamo affidare la nonna, la zia, tutte le persone che sono venute a mancare dalla tua vita fisica, ma che benché morte continuano a vivere nell'eternità e nell'amore di Dio. Ora, questo era un semplice esempio, non è di questo che voglio parlare questa sera, ma tanti di voi quando mi scrivono anche queste domande molto concrete pongono e a queste desidero rispondere. Ma voglio venire al punto e alla questione. Cos'è che si teme nel fatto della morte? Perché si ha paura? Ecco, qui ci sono diversi elementi di cui si ha paura. Si ha paura del fatto che la morte è ineludibile, cioè nessun uomo sfugge ad essa. Si ha paura del fatto che la morte è imprevedibile, non si sa quando arriva, e poi si ha paura del dolore che accompagna la morte, ma soprattutto si ha paura di quanto c'è oltre. Ecco, questi elementi voglio esaminarli insieme a voi, cari amici, uno per volta, per comprendere di quali aspetti si può aver paura e come quindi si potrebbe accompagnare il nostro interlocutore, ma noi stessi per primi, ad affrontare questa questione così decisiva per comprendere il senso della vita senza inutili timori. Anzitutto, diciamo, si ha paura del fatto che la morte è ineludibile. Nessuno può scappare alla morte. Ho già ricordato una frase del Vangelo che c'è davvero di ispirazione. La troviamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, versetto 27, quando Gesù domanda: chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Come dire, quando la morte deve arrivare, arriva. E tu che hai passato settimane, mesi, anni senza interrogarti sulla preziosità della tua vita, adesso non puoi neanche aggiungere un'ora o 5 minuti. Potrei citare anche un filosofo a me molto caro, il danese Søren Kierkegaard, che nella prima metà dell'Ottocento affermava: nella vita l'unica cosa certa è la morte, cioè l'unica cosa di cui non si può sapere nulla con certezza. E voleva dire: siamo certi che ci coglierà, ma non sappiamo quando, come e dove. O ancora potrei citare un autore al di fuori di quello che è il panorama cattolico, Oscar Wilde, poeta, drammaturgo e saggista irlandese, che nella seconda metà dell'Ottocento, diceva con amara ironia: si può sopravvivere a tutto tranne che alla morte. Ecco, a volte anche l'ironia, il sarcasmo, un certo distacco sono un modo per esorcizzare forse la paura che si prova nei confronti della morte. E vedete che è una questione che, in quanto riguarda l'uomo, tocca tutti coloro che possono interrogarsi o magari tentare di prendere una certa distanza da essi, cattolici e non cattolici, credenti e non credenti, filosofi, saggisti, uomini comuni. Una conferma di quanto la morte sia ineluttabile e non si possa sfuggire ad essa si trova anche e con abbondanza nella Sacra Scrittura. Pensiamo al Salmo 88, che si interroga: quale vivente non vedrà la morte? Chi sfuggirà al potere degli inferi? O ancora il libro sapienziale del Coelet: nessun uomo è padrone del suo soffio vitale tanto da trattenerlo, né alcuno ha il potere sul giorno della sua morte, né c'è scampo alla lotta. L'iniquità non salva colui che la compie. E infine il libro del Siracide, al capitolo 8: non gioire per la morte di qualcuno, ricordati che tutti moriremo. Ecco, nessuno ha potere sulla morte. Questa morte, come fase per qualcuno forse naturale della vita, è in realtà qualcosa che ci intimorisce al pensiero che nessuno le può sfuggire. E un altro elemento che a questo si accompagna è che nessuno le può sfuggire, ma nessuno sa quando arriverà. Non è come un esame di maturità che i miei studenti di quinta del liceo sanno che devono affrontare tutti e comunque, però almeno sanno quando è. C'è un giorno fissato, c'è un giorno in cui ha inizio la prova. In questo caso invece la morte porta con sé una carica di timore, anche perché porta questo elemento molto caratteristico: è imprevedibile. Sappiamo che tutti dobbiamo morire, ma non sappiamo quando. Pensiamo alle parole del filosofo stoico Lucio Annaeo Seneca, che vive nel primo secolo dopo Cristo, quando dice nella lettera a Lucilio: la morte non tien conto degli anni, non sai in quale momento essa ti aspetti, perciò aspettala in ogni momento. Ecco, bisognerebbe vivere così, nell'attesa costante della morte. Forse è imprevedibile, e allora come tale devo essere sempre pronto. In realtà, forse per sfuggire a questa imprevedibilità, il poeta romano decise di togliersi la vita morendo suicida. E mi piace ricordare che quando Seneca si suicidò, come era usanza dell'epoca, anche la moglie doveva seguire la stessa sorte. e decise di ovviamente seguire il marito anche nella modalità. All'epoca si usava tagliarsi le vene immersi in questa vasca di acqua calda che ne accelerava un po' la fuoriuscita, portava un certo forse sollievo nell'accelerare, nell'affrettare la morte. Fatto sta che quando vide che il marito era ormai morto, la moglie chiese con una certa ansia, una certa fretta ai presenti di ricucirle subito le vene perché non si sentiva affatto pronta per lasciare la vita. Ecco, questo è un po' un aneddoto, per quanto drammatico, che ricordo anche ai miei studenti quando dico loro: non è così naturale desiderare la fine della vita, non è così normale desiderare di uscire anticipatamente dalla vita, come se questo fosse un rimedio al fatto che la morte è imprevedibile. Immaginate quante conseguenze potrebbe avere questo discorso sul dibattito contemporaneo sull'eutanasia, sul suicidio assistito. Ormai anche il nostro paese va nella direzione di riconoscere il diritto al suicidio come un diritto di autodeterminazione, con buona pace di tutto quello che non soltanto insegna la scrittura e dice il Vangelo, ma anche con l'insegnamento della Costituzione, che parla della vita come un bene e un diritto inviolabile. Ma inviolabile vuol dire che è inviolabile da chiunque, anche da se stessi. E invece sempre più, anche oggi, cari amici, l'uomo cerca di diventare Dio al posto di Dio. È per quello che per me è gravissima l'idea che per sfuggire alla morte, per sfuggire al dolore di una malattia, per sfuggire a una vita che non si ritiene più degna, in maniera arbitraria, ovviamente individualistica, uno scelga il suicidio. Perché è come se dietro a questa tentazione dell'uomo ci fosse il pensiero e l'agire del nemico per eccellenza della nostra felicità, che è il demonio, che vuole spingerti a dire: usa e abusa della tua vita a tuo piacimento. Ma la vita, cari amici, è un dono. È un dono che ci è stato fatto, di cui al massimo siamo amministratori chiamati però a risponderne. Non ne possiamo usare secondo il nostro arbitrio, perché non è un bene su cui abbiamo pieno titolo. Non l'abbiamo comprata, non l'abbiamo meritata, ci è stata donata. Ecco come parlare della morte, lo vedete, non può far altro che portarci a parlare del senso vero della vita. Andiamo ancora avanti su questo punto della imprevedibilità, citando un filosofo che già conosciamo, l'esistenzialista francese Jean-Paul Sartre, che descrive così nell'Essere il Nulla, che è la sua opera forse filosofica più importante, un po' il manifesto del suo nichilismo esistenziale del 1943. Così parla della morte. Si è sovente detto che noi siamo nella situazione di un condannato a morte, in mezzo ad altri condannati, che non conosce il giorno della sua esecuzione, ma vede ogni giorno giustiziare i suoi compagni di prigione. E questa è già un'immagine molto forte. Immaginate di essere rinchiusi in una prigione, sapete che un giorno uno, un giorno l'altro, vengono uccisi i vostri compagni di galera e dite: va bene, non so quando toccherà a me, però mi posso preparare, vedo che salgono sul patibolo, vedo che più o meno l'iter è questo, cerco di prepararmi. E Sartre dice: non è così. Infatti continua: ciò non è però del tutto esatto. Bisognerebbe piuttosto confrontarci a un condannato a morte, che si prepara coraggiosamente all'ultimo supplizio, che ci mette tutto il suo impegno per fare bella figura sul patibolo e che nel frattempo è portato via da una epidemia di febbre spagnola. Ecco ciò che ha capito la saggezza cristiana, che raccomanda di prepararsi alla morte come se questa potesse sopravvenire da un momento all'altro. La morte non può essere attesa. Ecco, questo è un pensiero importante. Uno si prepara per salire sul patibolo, ma in realtà arriva improvvisamente un'epidemia di febbre spagnola, un male che è quanto mai attuale, sapendo i danni e i disastri della recente e ancora presente epidemia di Covid-19. Proprio un secolo fa l'epidemia spagnola riusciva a contagiare quasi il 25% della popolazione mondiale, almeno 500 milioni di persone, causando da 50 a 100 milioni di morti. Ecco, oggi i numeri, per grazia di Dio, sono infinitamente più piccoli, però abbiamo sperimentato il disagio, abbiamo anche capito, a causa di questa pandemia, quanto fragile sia la vita dell'uomo, quanto i progetti umani, per quanto pensiamo anche di essere ormai onnipotenti e dominatori della natura e del mondo, sono in realtà sospesi a un filo molto fragile, che o è nelle mani di Dio o è veramente affidato al caso, alla natura o al destino. La morte non può essere attesa. È come una febbre spagnola che ti colpisce mentre tu pensavi di doverti preparare al patibolo. E che cosa capita? Che Sartre dice: ha fatto bene la saggezza cristiana a dirti preparati come se dovessi morire ogni giorno, quello che in fondo diceva anche Seneca, però poi Sartre va ancora oltre e dice: in fondo però non si può attendere. Tu non puoi attendere un treno che non sai quando passa, attendi un treno che sai che è atteso per le 4 di pomeriggio. In fondo pensate al senso dell'attesa vana, mi viene in mente il castello di Kafka, mi viene in mente il deserto dei Tartari, di Buzzati. Ci sono tante opere di narrativa italiana e straniera che mostrano come questo senso dell'attesa di non si sa cosa, non si sa quando, fa parte del cuore dell'uomo. Quindi la morte è temuta. Ed è passata sotto silenzio proprio perché fa paura perché non le si può sfuggire, fa paura perché, secondo elemento, non si sa quando arriva. Ma c'è un altro aspetto che rende la morte temibile ed è il fatto che è accompagnata dal dolore. Non è raro sentire delle persone che, quando vengono interrogate sul pensiero della propria dipartita, affermano di temere anzitutto la sofferenza che potrebbe caratterizzare gli ultimi istanti della loro vita. Perché questa è una realtà di fatto, a nessuno piace soffrire e ogni individuo, potendolo fare, eviterebbe anche il benché minimo dolore. È una cosa che trova conferma nei discorsi che si possono udire anche quando si esce dalla chiesa al termine di un funerale, quando magari ci si scambia impressioni o ricordi sul defunto e spesso si sente dire ha fatto proprio una bella morte. Ecco, cosa si intende? Io quando sento un'espressione del genere magari penso istintivamente, beh, meno male, vuol dire che è morto coi sacramenti, si è confessato finalmente in maniera sincera dei suoi peccati. Ma una tale aspettativa viene sovente disillusa dalle smentite di chi si affretta a precisare ha fatto una bella morte perché è morto senza soffrire. Come se il problema più grave della morte fosse la sofferenza che comporta. Già nell'antichità l'uomo si poneva queste domande. Mi viene in mente il tentativo di risoluzione del filosofo ellenistico Epicuro, che nel IV-III secolo a.C. riteneva la paura della morte uno dei quattro mali che affliggono l'uomo, una delle domande o delle questioni risolte la quale l'uomo poteva vivere serenamente. Anzitutto l'uomo ha paura della morte, l'uomo ha paura del dolore, l'uomo ha paura degli dèi, capricciosi, vendicativi, secondo Epicuro, e l'uomo ha paura di non poter raggiungere il piacere. E sappiamo che Epicuro tentava di rispondere a questi quattro mali con quattro medicine, il cosiddetto quadrifarmaco, per cui in maniera sintetica posso ricordare, diceva: ma degli dèi non bisogna aver paura perché essendo perfetti non si curano dell'uomo che è imperfetto, pensano soltanto a loro stessi. Purtroppo una concezione della divinità molto antropomorfa, è l'uomo che è abbastanza egoista da pensare solo a se stesso. Dio è amore e noi sappiamo che un Dio che è amore non può che prendersi cura dei suoi figli. E nel cristianesimo questo è particolarmente chiaro perché nell'incarnazione si vede proprio come Dio si china sull'uomo per tentare di sollevarlo da questa condizione di miseria, di indigenza, di bisogno d'amore. Ancora diceva, ma non temere di non trovare il piacere che stai cercando, perché basta saper cercare il piacere giusto, un piacere che corrisponda alla tua dimensione naturale, un piacere che sia necessario. Ad esempio, mangiare e bere sono funzioni vitali per l'uomo, abituati a mangiare e bere quello che è necessario, quindi pane e acqua, carne e acqua. Ma non cercare cibi succulenti e raffinati che potrebbero portarti problemi di salute. Era un po' come nella ricerca dell'equilibrio, Epicuro dicesse: evita gli eccessi e vedrai che troverai il piacere che cerchi. Rispetto al dolore, dice: beh, il dolore che puoi incontrare in vita lo puoi sopportare se è lieve. Se è lieve potrebbe durare a lungo, ma appunto in quanto lieve è sopportabile. E se è un dolore lancinante, beh, è segno, diceva Epicuro, che sicuramente c'è qualche patologia gravissima che lo accompagna, quindi ti condurrà presto alla morte, durerà poco. Capite che non è una grande consolazione, no? Se è un dolore lieve lo puoi sopportare, e se invece è lancinante, beh, morirai presto. Beh, capite che sono proprio tentativi molto umani di rispondere a questi misteri che caratterizzano l'esistenza di ogni uomo. Ma è il quarto dei rimedi di questo quadrifarmaco di Epicuro che ci interessa presentare. Come rimedia alla morte? Beh, secondo il pensatore greco, la soluzione si trova mostrando che il timore della morte non ha fondamento. Se infatti temo anzitutto il dolore che accompagna la fine della mia vita, all'epoca parliamo insomma, di 3-4 secoli prima di Cristo si moriva sovente tra atroci sofferenze, per malattie anche banali, si moriva di morte violenta, c'erano ruberie, guerre, c'erano aggressioni, battaglie. La morte era un fatto forse molto più comune rispetto ad oggi. Ecco, dobbiamo considerare, dice Epicuro, che se ci siamo noi la morte non c'è, e se c'è la morte non ci siamo più, quindi non possiamo sentire. Nella lettera sulla felicità che ha scritto Epicuro, leggiamo infatti: la morte, il più atroce dunque di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo, la morte non c'è. Quando c'è lei, non ci siamo noi. Non c'è nulla né per i vivi né per i morti. Per i vivi non c'è e i morti non sono più. È interessante dire che la morte non è nulla, perché quando compare la morte, la persona non è più. E quando la morte non c'è ancora, io sono vivo. E quindi se uno dice io ho paura, anzitutto del dolore, il dolore legato alla sensazione, alla capacità di percepire, è evidente che la morte annulla ogni percezione. Ora, è evidente che una tale soluzione non funziona. E sembra quasi un gioco di parole, se c'è la morte non ci sei tu, se ci sei tu non c'è la morte, perché riduce la morte al dolore che accompagnerebbe eventualmente l'ultimo istante di vita che precede la morte. Però sappiamo che in questo istante non sarebbe ancora morte. E allora per quale motivo uno dovrebbe angustiarsi? Per quale motivo, dopo la soluzione che Epicuro propone, la gente ha continuato ad avere paura della morte? Solo perché è ineluttabile? Solo perché è imprevedibile? In realtà c'è di più. Io penso che la questione fondamentale per cui si ha paura della morte non è il dolore che sta al di qua della morte, bensì quello che sta al di là della morte stessa. Oggi la terapia del dolore nel mondo, anche in Italia, ha raggiunto livelli tali per cui patologie che un tempo avrebbero portato alla disperazione, alla tentazione di farla finita, l'uomo, vengono affrontate con molta serenità, perché il dolore può essere ridotto. Eppure l'uomo si angoscia, l'uomo continua a interrogarsi. Perché? Perché quello che fa paura all'uomo è il mistero della morte. Diventa un'inquietudine reale quando si considera la morte non in termini astratti, ma come la drammatica fine della propria vita. Mi piace qui citare Indro Montanelli, giornalista del XX secolo, scomparso nel 2001, che affermava: "Non ho paura della morte, ma di morire". Cioè, non ho paura della morte come questione esistenziale, astratta, domanda filosofica, ma di morire io. Al di là di queste parole di Montanelli, io penso che ognuno di noi, a un certo punto della vita, fa proprio questa esperienza, cioè si accorge che la morte si trasforma dall'essere una questione generale, di cui si può discutere e che potrebbe anche destare una certa preoccupazione, a diventare un problema personale, che mi riguarda direttamente e personalmente. A volte non è sufficiente neppure averne esperienza. Sperimentando la tragica concretezza di persone a noi vicine che sono morte, se per me non è una realtà. Ancora una volta voglio citare Kierkegaard, quando parlando della verità diceva: non esiste la verità, ma la mia verità. Cosa vuol dire la mia verità? Secondo il filosofo danese, una cosa è vera quando è vera per me. Questo non significa che Kierkegaard stia abbracciando il relativismo. Sta dicendo semplicemente che qualcosa è vero quando lo faccio mio, quando cioè sono disposto a calare nel mio percorso di vita, nella mia parabola esistenziale, quella realtà che, pur drammatica, finché tocca l'altro non mi interroga. Ma quando penso che sarò io a morire, ecco che allora le domande nascono. Qui devo fare riferimento a un episodio che riguarda la mia esperienza di vita. Penso sempre che le storie, le testimonianze possano parlare molto più di tanti insegnamenti astratti e teorici. E quindi cito un aneddoto relativo alla mia nonna materna, alla nonna Angiolina. E mi ricordo che quando È morto mio nonno Francesco dopo alcuni mesi di malattia nel 1994. Io mi sono trovato a trascorrere parecchio tempo con lei. All'epoca frequentavo l'università, studiavo filosofia all'Università di Torino, ma frequentando i corsi a Vercelli, e quindi ero abituato a trasferirmi da Casale Monferrato a Mirabello, che è il paese dei miei nonni materni, per alcuni mesi, diciamo dalla fine della primavera fino all'inizio dell'autunno. Quell'anno, considerando che mio nonno era scomparso proprio nel maggio del 94 e quindi mia nonna era rimasta vedova, ho pensato di prolungare la mia permanenza nella casa di campagna. Ed è stato un tempo bello perché è stato fatto di confidenze, di condivisioni e sicuramente ci ha avvicinato tanto. Io ricordo che la vita sembrava quasi procedere come prima, no? Quando il nonno era ancora vivo, almeno relativamente alla vita quotidiana e alle incombenze che una donna pur anziana come nonna Angiolina trovava sempre da sbrigare in casa, in cortile o nell'orto. Però ogni tanto la guardavo compiere i gesti di sempre, quei gesti per cui diciamo la vita va avanti, coraggio, tutto riprende il corso di prima, e notavo invece una differenza. Vedevo che a volte si nascondeva e piangeva. A volte ritornava magari dall'orto, aveva il volto rigato dalle lacrime, se non proprio singhiozzante. Magari la vedevo anche piangere in silenzio mentre era così intenta a cucire alla luce della finestra e pensava che non la stessi guardando. La cosa mi procurava dispiacere e mi chiedevo come potessi alleviare il dolore per la perdita del nonno, no? Di suo marito da cui era legata, pensate, da ben 53 anni di matrimonio. Allora un giorno mi sono fatto coraggio e vedendola con gli occhi rossi per il pianto le ho chiesto: "Ma nonna, perché piangi così spesso? Io so che la tua fede è profonda, è autentica. Io devo proprio a mia nonna i primi insegnamenti della fede, è stata lei anche la mia madrina insieme al marito Francesco di battesimo, no?" E dicevo: "Ma io conosco la tua fede, ma non credi dunque che il nonno sia salvo? Non pensi che abbia incontrato finalmente Gesù e Maria Ausiliatrice che amava così tanto, perché mio nonno e mia nonna hanno vissuto sempre all'ombra del campanile della parrocchia salesiana del Sacro Cuore di Gesù qui a Casale Monferrato?" E io pensavo che fosse così triste per la scomparsa del nonno che dico: "Ma di fronte a questa morte, non pensi che però ci sia una salvezza che vale di più?" E lei mi ha risposto sorprendendomi: "Ma guarda Diego che non piango mica perché è morto il nonno. Io so il destino, mi diceva la nonna, che attende le anime che muoiono nella grazia di Dio. Lo so che il nonno è salvo, abbiamo fatto dire le messe, abbiamo fatto l'indulgenza plenaria per lui, abbiamo pregato per lui, ma io piango invece perché con la sua morte mi sono accorta che si muore per davvero." Ecco, questa è una frase che mi sono sempre portato nel cuore, sono passati più di 25 anni da allora, cioè la morte del marito le aveva fatto comprendere, all'epoca aveva oltre 70 anni, quanto fosse reale anche per lei personalmente la morte. Ecco perché è fondamentale lasciarsi interrogare, è fondamentale ricordare quanto dicevo in apertura, cari amici, sull'importanza di non dare per scontato di conoscere tutto quello che c'è da sapere sulla questione. È importante non mettere tra parentesi la domanda più importante sulla vita, che è qual è il senso della morte. È importante accorgersi che proprio gli interrogativi su quello che ci aspetta dopo sono forse più importanti, più profondi, più ineludibili della morte stessa. E non basta mettere tra parentesi il dolore. E non basta, come già abbiamo visto, pensare che in fondo il ricordo dei nostri cari sarà la risposta, ecco, a tutta la sofferenza che questi interrogativi ci possono produrre. Il problema vero è chiedersi su che cosa si spalanchi questo grande mistero che è la morte. Ecco perché allora introduco anche questo secondo capitoletto, perché interrogarsi sulla morte, visto che comunque non le si può sfuggire. È una domanda importante e per niente banale, perché mi è stata fatta sovente da chi dice: "Ma tu fai tutto questo gran parlare della morte per poi parlare dell'eternità, ma se tanto non si può sfuggire alla morte, che senso ha interrogarsi?" Ma mi verrebbe da dire: se tanto siamo buttati nella vita, perché interrogarsi sul senso della vita? Se tanto siamo destinati a innamorarci, ad amare qualcuno, perché interrogarsi sull'innamoramento e l'amore? Sono domande abbastanza scontate nella loro risposta, perché ciò che riguarda l'uomo va esplorato, va indagato. L'uomo è un cuore che è chiamato non soltanto a sentire, ma anche a sapere. E siamo intelligenza e volontà, comprensione e libertà. Vogliamo capire il mistero di questa vita che ci è affidata. Allora, interrogarsi sulla morte equivale a chiedersi qual è il significato della vita, tanto quando domandarsi qual è la meta verso cui siamo diretti illumina il senso del cammino che stiamo percorrendo. Ancora una volta, cari amici, possiamo trovare conferma di un atteggiamento di autentica ricerca, che è quello che ci sta a cuore, perché se siamo disposti a una ricerca autentica e sincera, ci interroghiamo e siamo anche disposti ad accogliere una parola nuova come quella che Gesù vuole dirci. Un senso di autentica ricerca che, ad esempio, troviamo nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia di Giacomo Leopardi. Sono versi famosissimi che forse ci ricorderanno la scuola, ma che ritengo, ecco, importante ricordare. E quando miro in cielo ardere le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito seren? Che vuol dire questa solitudine immensa? E io che sono? Così meco ragiono. Ecco, io chi sono? Si chiede il pastore. Questo pastore che guarda le stelle, guarda la luna, quindi è notte, ha una giornata pesante sulle spalle, eppure non trova riposo, mosso com'è dagli interrogativi sul senso della vita che evidentemente toccano anche un pastore errante dell'Asia. È molto acuto Giacomo Leopardi a mettere questa domanda nel cuore di un pastore per dire: è la domanda di ogni uomo, non conta la condizione sociale, non conta il percorso di studi, non sono questioni che soltanto filosofi intellettuali si pongono, ma l'uomo di sempre, l'uomo comune. Sentirsi, diciamo, piccoli e fragili, sospesi tra la vita e la morte a ogni istante del proprio esistere, fa sorgere proprio queste domande che in ultimo esprimono il desiderio di conoscere se stessi, di conoscere la propria identità attraverso gli interrogativi fondamentali: chi sono, da dove vengo, dove vado, che sono poi gli interrogativi dei filosofi delle origini, quando si chiedevano: ma tutta la realtà da dove viene? Ma di che cosa è fatta? Qual è la sua consistenza e dove è diretta? E poi c'è un altro aspetto positivo nell'interrogarsi sulla morte, affrontando anche l'inquietudine o quel senso di disagio che certe domande fanno nascere in noi. Si tratta di procurarsi una chance in più, una possibilità di prepararsi meglio a quell'evento che, come diceva Sartre, abbiamo visto per sua natura è inattendibile. Cioè, se io mi interrogo sulla morte, mi sto interrogando su un aspetto della vita. È un po' come se mi stessi chiedendo: ma chi sono io? Mi sto interrogando su quello che è la mia vita, il mio percorso esistenziale o le mie domande di senso. Dall'altra, bisogna anche notare che interrogarsi sulla morte vuol dire comunque avere le antenne dritte, essere almeno aperti per quanto sia imprevedibile e ineluttabile questo avvenimento così drammatico, almeno considerarlo, almeno provare a prepararsi. E qui mi viene ancora il desiderio, ecco, di condividere un episodio che fa parte della mia adolescenza e che ha segnato profondamente la mia maturazione come uomo e come cristiano. E ancora una volta, ecco, vado a rintracciare nella vita, pur in una pagina dolorosa, ecco, e sofferta della vita, l'occasione proprio provvidenziale per comprendere il senso della vita alla luce di episodi così drammatici come la fine improvvisa di questa vita. Ad esempio, anche in un giovane. Ero in terza liceo, un anno che per me è stato decisivo, è stato l'anno in cui ho incontrato, direi, la fede per la prima volta, è stato l'anno in cui ho potuto, non soltanto riscoprire, ma forse trovare per la prima volta una strada per fare esperienza, di Dio. Ricordo che avevo incontrato in un oratorio, che è l'oratorio della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, dove vivo ancora adesso, proprio questa realtà giovanile legata a gioventù studentesca, i ragazzi del movimento di Comunione e Liberazione. Anche grazie al carisma, ecco, di un bravo viceparroco, avevo trovato un modo per vivere la fede, farne esperienza, un po' il cuore dell'insegnamento di Don Luigi Giussani, fondatore del movimento di CL, è proprio questo, che La fede è un'esperienza e vivendola se ne scopre la ragionevolezza, cioè il fatto che corrisponda a quello che proprio è l'uomo nella sua natura, nelle sue domande, nelle sue esigenze più profonde di verità, di bellezza, di giustizia e di amore. Allora, quando ero in questo anno così decisivo, ecco che avevo un compagno di scuola che non brillava assolutamente per pratica religiosa e non nutriva quindi una particolare simpatia per le mie scelte di fede. Una fede che io invece stavo proprio allora interrogando e approfondendo, con un certo senso critico, volevo cioè essere sicuro di abbracciare non semplicemente una filosofia di vita, ma una via di vita. Mi interessava, segnato come ero in maniera misteriosa da un certo senso di precarietà della vita, mi interessava trovare anzitutto una strada per non perdere la vita. E quindi la proposta cristiana, così segnata dalla promessa della vita eterna, evidentemente mi sembrava che facesse proprio al caso mio. Eravamo però legati, io e questo amico, questo compagno di classe, da un'amicizia sincera. Avevamo infatti frequentato insieme anche le elementari, quindi dalla prima eravamo stati compagni di classe, capitava che studiassimo insieme. E anche quel giorno ricordo che avevo deciso di preparare l'interrogazione di filosofia che ci sarebbe stata da lì a poco e siamo usciti proprio con questo amico un'ora prima da scuola, mancava un insegnante, c'era un'ora buca e mentre aspettavamo che i genitori venissero a prenderci all'uscita da scuola ci siamo fermati a chiacchierare poco distanti dal liceo. In quel tempo portavo proprio nel cuore tantissime domande sulle questioni che ispirano queste conversazioni e su quello che poi mi ha spinto anche a scrivere il libro Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca. E ricordo che mi sono trovato proprio con questo amico, che mai avrebbe immaginato di dover sostenere una tale conversazione, a parlare della precarietà della vita umana, di quanto la condizione dell'uomo sia caduca, della possibilità però che la morte non fosse l'ultima parola, che ci fosse una possibilità di una vita ulteriore, no? In fondo che forse Gesù, che aveva resuscitato Lazzaro, poteva mantenere la sua promessa di resurrezione anche per noi, lui che proprio era risorto da morte. E quindi ci siamo un po' confrontati, ecco, in maniera serrata, però ovviamente cordiale, e poi ci siamo lasciati, ecco, mi ricordo che già all'epoca, per aprire uno spiraglio di speranza in questo amico, avevo fatto un esempio che poi mi è diventato molto chiaro, no? Parlando della possibilità del per sempre. Dicevo, ma in fondo, ma senti, ma anche tu, quando guardi alla ragazza del cuore, senti il desiderio di poterle dire ti amo e ti amerò per sempre. E questo per sempre è come se fosse qualcosa che sboccia, come un'esigenza naturale nel tuo cuore, dicevo. Quindi anche se tu non hai letto il Vangelo, anche se tu non conosci che la resurrezione di Gesù, anche se tu non conosci le sue promesse di vita, ecco che però ti trovi a poter dire in realtà devo dire che effettivamente anch'io sento questo desiderio di per sempre. Ecco, fatto sta che mentre ci siamo lasciati, penso con motivi di riflessione entrambi, ci siamo poi dati appuntamento di lì a poco in oratorio per studiare filosofia. Abbiamo fatto una full immersion in Platone e dintorni per quasi 3 ore dalle 3 alle 6 di pomeriggio, poi ci siamo lasciati poco prima dei vespri, io perché andavo a pregare con i miei amici dell'oratorio e lui perché invece voleva andare a farsi un giro con la moto nuova che aveva comprato da poco. Dopo che ho pregato con i ragazzi in oratorio, sono tornato anch'io a casa, ho preparato lo zaino di scuola per l'indomani e poi mi sono messo a tavola per cena. Verso le 8, mentre ero ancora a tavola, suona il telefono di casa. All'epoca non c'erano i cellulari, era il 1990, e suona il telefono di casa ed è la mamma di quel mio amico che mi chiede: ma siete ancora insieme a studiare? Fino a che ora ne avete? Io dico: no, guarda che ci siamo lasciati intorno alle 6 di pomeriggio. Avverto che è un po' preoccupata, intanto è diventato buio, dico: ma stia tranquilla, si vede che fa tardi perché è ancora in giro a divertirsi con la moto e gli sarà scappata l'ora. Ecco, io non sapevo quando ho preso questa telefonata e quando ho rassicurato in buona fede questa mamma, preoccupata per il figlio, io non sapevo che il figlio era morto già da un'ora. E l'ho scoperto poi il mattino dopo, quando andando a scuola ho scoperto che c'era stato un incidente su una collina, ecco, proprio vicino a Casale, e questo amico era morto. Forse era stato abbagliato da qualche macchina che procedeva in senso contrario, forse aveva perso il controllo della moto perché era nuova, Fatto sta che era andato a sbattere contro un palo ed era morto. Non era morto subito, è morto. Hanno poi detto i volontari che l'hanno soccorso mentre stavano andando in ospedale. E io sono stato subito preso da mille pensieri. Io vedevo i miei compagni che piangevano, ma anziché lasciare spazio semplicemente all'emozione, ho voluto lasciare spazio agli interrogativi. Quando la madre mi aveva telefonato, io l'avevo rassicurata, ma questo figlio era già morto. E nel momento in cui ci si pone di fronte a questa realtà, quel senso di vertigine, di sconforto, di paura che accompagna la morte ben più del dolore, ti prende, ti attanaglia il cuore. Anch'io mi sono chiesto di fronte a questo mistero così grande, come saranno stati quegli ultimi istanti. È un pensiero, forse più che un pensiero, una certezza interiore mi ha accompagnato fin da subito, cioè l'idea che in fondo, proprio per le domande che avevamo condiviso, in quegli ultimi istanti, quando ci siamo salutati, prima di ritrovarci poi nel pomeriggio a studiare, ma in quei minuti passati a interrogarci della vita e della morte, ecco, forse qualche germe di dubbio poteva essere sceso nel cuore di questo amico. E forse in quegli ultimi istanti, quando si è trovato da solo, a tu per tu con la morte, ha avuto una grazia particolare, cioè di avere davanti a sé quelle domande, quegli interrogativi, quelle parole di vita e di speranza condivise poche ore prima. E forse proprio per queste domande poteva essersi messo in discussione, poteva avere magari avuto la forza, se non di dire credo, almeno di chiedere aiuto al Signore o di chiedere perdono. Ecco, Dio solo lo sa, Dio solo conosce gli ultimi istanti della vita di una persona, quelli decisivi, quelli che accompagnano il momento dell'uscita. Dio solo sa come ci si appresta a vivere questo momento, perché è un momento difficile, perché è un momento in cui si è davvero soli, si può anche essere in mezzo a mille persone disposte a soccorrerci, si può anche essere nell'ospedale più all'avanguardia del mondo, dove ci sono gli specialisti per eccellenza della malattia che ci sta portando alla morte, ma quando vedo che si avvicina la fine, in realtà io sono solo. Sono solo però con il Signore, sono solo con quel Dio che mi ha affidato al cammino della vita perché io potessi conoscerlo, potessi amarlo, servirlo e goderlo nell'eternità. Se ricordate, il Catechismo di San Pio X rispondeva così alla domanda perché Dio ha creato l'uomo: per poterlo conoscere, amare, servire in questa vita e goderlo nell'eternità. E questo è un obiettivo che riguarda la vita di ogni uomo, anche di chi rimane lontano dalla fede, anche di chi rimane non credente, anche di chi ti dice non parlarmi del tuo Gesù, non parlarmi del paradiso, sono tutte invenzioni e fandonie. Eppure Dio sa quali dubbi salutari possano nascere nel cuore dei nostri cari prima della fine. Ed è per questo che io nutro una speranza molto forte che anche questo amico possa essersi salvato proprio all'ultimo, scegliendo di abbandonarsi tra le braccia di quel padre che pure aveva a lungo, se non rifuggito o rifiutato esplicitamente, almeno messo da parte. È per questo che allora, cari amici, non perdo mai l'occasione per toccare il tema della morte, del destino eterno dell'uomo, perché mi dico, io non posso sapere se quella è l'ultima occasione per me o per chi mi ascolta di affrontare queste situazioni, queste domande, queste questioni. È fondamentale riuscire a trarre sempre un'occasione per parlare, ecco, del destino dell'uomo, per interrogarsi. È fondamentale sapere che ci sono sicuramente delle paure che riguardano l'aldilà, posso pensare alla paura del dolore, ma ci sono domande molto più grandi che riguardano invece l'aldilà. E allora quando incontro qualcuno mi dico, ma e se queste domande potessero essere affrontate anche da questa persona, per quanto apparentemente così lontana dalla fede? E allora, ecco, un po' come dice l'Apostolo, mi trovo a esortare nei momenti opportuni e inopportuni. Mi trovo a fare tesoro di ogni circostanza, anche quando sono a scuola con i miei studenti e qualche filosofo tocca il tema, io pongo delle domande. Certo, non posso dare risposte preconfezionate, devo, come si può dire, stimolare il senso di ricerca dei ragazzi, degli allievi, degli amici, delle persone che incontro sul mio cammino di vita e di apostolato, però devo mostrare loro un'ipotesi di vita in atto. Cioè devo cercare anzitutto di educare mostrando nella mia povera e semplice vita di credere a quello che propongo poi a loro. E allora, fondamentale, con questo vado poi verso la conclusione, cercare di pensare che la paura della morte riguardi quindi due momenti, no? Quanto sta al di qua della morte, quanto sta al di là. E questo è un modo di guardare alla questione che ricavo da un libro molto importante, un'opera monumentale, La morte, di Vladimir Yankelevich, che è un autore del XX secolo, un filosofo ebreo ma di origine russa, naturalizzato francese, docente alla Sorbona per quasi 30 anni, quindi con un indubbio profilo culturale. Quest'opera, La morte, pubblicata da Einaudi nel 2009, distingue proprio la prospettiva di quanto sta al di qua, la fragilità umana, la caducità dell'esistenza, la malattia, l'invecchiamento, la riflessione sulla fine dell'esistenza umana, da quanto invece sta oltre, l'avvenire, la sopravvivenza, la vita dopo la morte, oppure anche il nulla. Questa impostazione si completa in Yankelevich con l'analisi di un terzo segmento, quello centrale, cioè la morte nell'istante mortale, così la definisce, un'esperienza che le categorie umane faticano a racchiudere, sospesa tra la vita e la morte piena, tra l'essere e il nulla, tra il pieno di essere e il vuoto di essere, tra il presente e l'eterno. Ecco che allora bisogna cercare di indagare la morte guardando proprio questi tre momenti, che poi è un po' quello che cerco di fare anch'io, no? Quando parlo di quelle domande che ci poniamo prima della morte nel mio libro, del mistero della morte e poi di quella che è la salvezza che alla morte potrebbe seguire per chi avesse vissuto in grazia di Dio e avesse accolto la divina misericordia. Cercando di concretizzare meglio i due aspetti della questione, andando al di là del semplice timore, uso un'altra immagine molto efficace usata da Sartre, questo filosofo ateo, esistenzialista francese, che un po' ci guida in questa riflessione, quando dice che in fondo la morte è come Giano, il dio bifronte, Janus bifrons. La morte guarda avanti e guarda indietro, è un dio che si trova su certe monete romane con due facce, guardare avanti e guardare indietro, guardare verso la nostra esistenza, che quindi viene illuminata dalla morte, perché se è la sua fine, evidentemente ne rivela tutta la fragilità, ma anche un guardare oltre, che per Sartre è il tutto o il nulla, una fine assoluta della vita o un nuovo inizio. Sartre, l'ho già detto, era ateo e affermava che la questione dell'oltre ognuno dovrebbe risolversela da sé, come meglio crede, avanzando le proprie ipotesi, abbracciando una visione della vita, una Weltanschauung preferita, oppure scegliendo anche di non pensarci. Però, riguardo alla faccia della morte che guarda verso di noi, ebbene, non si può far finta che il problema non esista. Si potrebbe dire, in fondo, che ciascuno di noi sta come camminando lungo un corridoio e al termine di questo corridoio c'è una porta. Cosa c'è oltre la porta è una questione che ognuno può decidere se affrontare o meno, ma il fatto che quella porta ci sia, cioè che la vita abbia termine, è una situazione certa e ineludibile. Ecco perché è importante distinguere l'aldilà e l'aldiquà. Potrei anche non interrogarmi sull'aldilà, ma che la morte guardi verso di me è un fatto oggettivo e universale per ogni essere umano. Poi aggiungo che fra i due segmenti del problema, se vogliamo definirli così, l'aldiquà e l'aldilà della morte, non c'è una vera cesura, non c'è una vera separazione, c'è un legame profondissimo. In fondo si vive la vita alla luce di quanto crediamo della morte. Se penso che la morte sia, scusate, una porta oltre la quale si spalanca una nuova e ulteriore possibilità, di vita eterna, è chiaro che do un certo peso a quanto succede nella mia quotidianità, dalle cose piccole alle cose grandi, e anche la perdita di una persona cara riceve una certa lettura. Se credo che con la morte finisca tutto, evidentemente quelle stesse esperienze hanno un significato radicalmente diverso, per cui ad esempio la morte di un fratello non sarà vissuta nell'attesa di rivederlo in cielo, ma come una disperante separazione per sempre. Un altro indizio poi di come si concepisce la morte è legata all'uso del tempo. Tutti sappiamo che il tempo della vita non è in mano nostra, ma poiché nessuno conosce il termine della propria esistenza, il salmista arriva addirittura a dire: Nel Salmo 89, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Nessuno conosce quanti giorni abbiamo. E il salmista prega a Dio, aiutami a contare i giorni, cioè a capire che sono contati, a capire che devo usarli bene. Questa è la vera sapienza del cuore. Se io credo nella vita eterna, posso sacrificare la mia vita terrena per un ideale, l'uguaglianza o la libertà. Posso accettare di morire martire, testimoniando col sangue la mia adesione alla fede. Ma se ritengo invece che la mia vita sia tutta qui, allora dovrei cercare di risparmiare ogni istante, di fare tesoro di ogni ora, di non buttare via neanche un giorno, ben sapendo che non avrò altra vita oltre a quella presente, terrena e finita. Il paradosso è che oggi questo non si vede, attuato in modo coerente. Perché oggi si vede spesso l'opposto, almeno fra le ultime generazioni, cioè si vedono i ragazzi, i giovani, che sovente affermano di non credere alla vita eterna, che pensano che la morte sia la fine di tutto, eppure vivono disperdendo tempo ed energie, rischiando la vita per motivi banali, negli eccessi, nelle trasgressioni, per disperazione o per incoscienza, come se non dovessero morire mai. Allora bisognerebbe chiedere chi è che sta dietro tutte queste scelte di vita, a volte così assurde. Non è che ci sia magari il sentore anche in questi modi di vivere così sgangherati e disperati, che forse non è proprio vero che è tutto qui? Perché se uno guarda come si vive, ricordo una volta in una mia quinta lo chiesi agli alunni, no? Ditemi un po' un principio di vita, ditemi un po' la massima che ispira il vostro modo di vivere. E una ragazza mi disse, vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. E io dissi, non è vero. E lei mi disse, ma come prof, lei non crede a questa frase? Oh no, certo che ci credo, non credo che tu viva così, perché io quando ti vedo vivere, ti vedo disperdere tempo, energie, ore e giorni, pensando che tanto un giorno vale l'altro. Ma se tu pensassi davvero che ogni giorno va vissuto come se fosse l'ultimo, eh beh, io credo che useresti il tuo tempo in maniera diversa. Ecco allora ciò su cui vorrei, cari amici, concludere questa nostra conversazione, anche questa nostra puntata, perché vedo che poi il tempo a nostra disposizione termina proprio nella sua interezza e nella sua complessità. Io desidero anzitutto richiamare a me stesso e anche a voi la importanza, la decisività di prendere consapevolezza del nostro modo di guardare alla morte a partire da come viviamo la vita. Perché se considero l'importanza del tempo, la decisività di ogni istante, di ogni minuto, di ogni ora, di ogni giorno, significa che a questa vita do un valore, una preziosità e vivo con la consapevolezza che questa vita è una sola, certo, con la speranza di poter godere di Dio nell'eternità beata, con la certezza che la parola morte non è l'ultima della vita, ma anche con la certezza di doversi assumere la responsabilità di come si vive questa vita nell'ottica di un futuro che chiaramente risentirà delle scelte compiute nel corso di una vita, pensando che alla fine si muore come si è vissuto e si raccoglie quello che si è seminato. E se vediamo qualcuno che disperde le proprie energie, nel male possiamo pensare non ha capito quanto è preziosa la vita, nel bene possiamo credere, forse sta intuendo che magari non è tutto qui. Ecco, cari amici, facciamo tesoro di quello che ho cercato di condividere, frutto della mia riflessione, ma anche delle ricerche, delle riflessioni di tanti uomini, importanti, famosi, ma anche semplici, nel corso dei secoli della civiltà umana, a testimonianza che interrogarsi sulla morte è proprio nel cuore dell'uomo e soltanto interrogandosi su questo grande mistero è possibile comprendere più in profondità quel grande dono che è la vita. Ecco, mi fermo qui, assicurando a tutti il ricordo nella preghiera, ricordando in preghiera in modo particolare tutte le persone che sono nella sofferenza, tutte le persone che sono moribonde, tutti coloro che assistono malati terminali o persone in procinto di compiere quel grande incontro che è con il Signore al termine della vita. vi chiedo in modo particolare di ricordarmi nella preghiera perché io possa ben svolgere questo mio apostolato e a tutti voi dico il mio grazie per l'ascolto, per le domande, per quello che mi raggiunge anche attraverso i commenti del canale YouTube, le email che mi mandate, ma soprattutto perché so che in questa grande famiglia che è Radio Maria c'è davvero il desiderio di fare della nostra vita un dono prezioso a Dio e agli altri per riuscire a conquistare quella vita vera che ci attende nell'eternità. Un saluto davvero cordiale a tutti da parte di Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.